Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Riprendiamo la conversazione interrotta ieri con Federico Frattini, professore della School of Management del Politecnico di Milano. Bentornato Frattini. Buonasera. Dunque stavamo parlando di smart learning, cioè di una serie di forme nuove che si stanno diffondendo per fare formazione. Ieri abbiamo parlato di un fenomeno che è quello dei MOOCs, che sono appunto dei corsi che gratuitamente vengono messi a disposizione da molte prestigiose università del mondo sui più svariati argomenti, che si mischia poi a tutta una serie di altri contenuti prodotti per esempio da professionisti, con corsi brevi, corsi lunghi, insomma c'è un po' di tutto. C'è però un mondo che è quello della formazione professionale, soprattutto dei manager, che ha una sua identità precisa rispetto a questo fenomeno dello smart learning, e questa sera vogliamo parlare di questo. Dunque, Frattini, dicevamo formazione dei manager, MBA a distanza. Assolutamente, è un altro trend molto rilevante, quello che vede le business school più importanti in giro per il mondo proporre dei formati master o MBA o executive MBA che hanno una componente di smart learning o digital learning, quindi a distanza, molto più importante rispetto al passato. L'importante classifica del Financial Times, che fa un elenco dei più prestigiosi MBA a livello globale, nell'anno passato ha rankato 66 MBA online, di cui 34 europei. Ormai le esperienze sono numerose e l'obiettivo con cui le business school stanno innovando i loro formati MBA e master è quello di aumentare la flessibilità con cui gli allievi possono frequentare questi percorsi, risparmiando tempo e ovviamente risparmiando anche soldi, dato che queste tecnologie permettono per le business school un importante risparmio del costo per l'erogazione. Ecco, certo, cioè intanto c'è la possibilità appunto di conciliare i tempi di lavoro con quelli di formazione. Uno che magari fa già il manager e vuole acquisire un'ulteriore formazione, è difficile che possa smettere di lavorare e andarsene per 6 mesi a seguire un corso da qualche parte o anche solo per un mese, no? Mentre magari può dedicare mezz'ora al giorno quando ce l'ha. È un po' questo il punto, no? Numero uno. C'è questa storia della riduzione dei costi che potrebbe avere un effetto democratizzante, niente male, no? Perché di che cifre stiamo parlando? Per seguire questi grandi master, che cosa si tira fuori di solito? Io vi faccio un esempio tratto dalla storia di Georgia Tech, un'importante scuola tecnica statunitense, che da sempre offriva ai suoi studenti un Master of Science in Computer Science, che aveva un prezzo come tuition fee di circa 45.000 dollari. L'anno scorso hanno lanciato un Master of Science attraverso una piattaforma di digital learning ad un prezzo di 7.000 dollari, quindi un risparmio importante che si lega però in realtà anche a un risparmio del costo opportunità del tempo. Come immaginate, insomma, che tutto questo abbia riflessi a lungo sulla formazione superiore? Ci saranno dei cambiamenti? Sicuramente sì, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, dato che abbiamo deciso alla Business School del Politecnico di lanciare un nuovo formato Executive MBA, che abbiamo chiamato appunto Flex, che si configura come una insieme di corsi a distanza, MOOCs, oltre a delle attività in presenza, che sono focalizzate però sulle soft skill e sul saper fare dei manager che frequentano un executive MBA. Questo per dirvi che probabilmente le università e le business school cambieranno il loro ruolo, diventeranno da dei fornitori di contenuti, di modelli, di tecniche, a dei broker che sanno orientare i loro studenti all'interno del grande mare magnum di... dell'offerta formativa, di contenuti. Disponibile sulla rete, e si focalizzeranno sulle attività a maggior valore aggiunto, quali ad esempio l'interazione, il placement, piuttosto che la risoluzione di casi complessi, piuttosto che sul trasferirgli dei contenuti predefiniti che ognuno potrà andare a prendersi in giro per il mondo dove trova l'eccellenza. Ecco, perché uno si domanda a questo punto, no? Ma chi glielo fa fare lo studente dell'università X di seguire il suo professore di fisica quando c'è il più grande esperto, non so, di meccanica quantistica a Princeton e posso seguire la sua lezione direttamente attraverso la rete? Assolutamente sì, e probabilmente nel medio-lungo termine questo accadrà. Studenti italiani decideranno di seguire sui contenuti di base di determinate materie lezioni tenute da esperti in giro per tutto il mondo. Cinesi, giapponesi, statunitensi. Da ovunque, no? Però si appoggeranno all'università locale per una serie di attività che richiedono un'interazione fisica in presenza, perché comportano il trasferimento di conoscenze tacite. Grazie Federico Frattini. Grazie a voi, buonasera. Appuntamento domani.